fingasi. Adino, all'arbitrio real, ma che come applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfarsi il legittimo re, saprà anche meglio un ingiusto rivale, poi dir di vita. Oh, speranze